se tu sospiri sol per me gentil pastor. O dolor de tuoi martiri, o diletto del tuo amor, ma se pensi che sovetto io ti debba riamar. Pastorello, sei soggetto facilmente a t'ingannar. Pastorello, sei soggetto facilmente a t'ingannar. Facilmente a t'ingannar. Bella rosa porporina, oggi Silvia sceglierà, con la scusa della spina, doman poi la sprezzerà, doman poi la sprezzerà. Ma degli uomini il consiglio io per me non seguirò, non perché mi piace il giglio, altri fiori sprezzerò. Se tu m'ami, se tu sospiri, sol per me gentile pastor. O dolor de tuoi martiri, o diletto del tuo amor, ma se pensi che soletto io ti debba riamar. Pastorello, sei soggetto facilmente a t'ingannar. Pastorello, sei soggetto facilmente a t'ingannar. Facilmente.